siamo. Let's go. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Attenzione a Coutinho, c'è Gabriel Jesus, punta a ricevere, ma Coutinho punta alla porta e va a calciare! Coutinho, dopo 25 minuti, sblocca la partita! Gabriel Jesus va dentro da Neymar, l'altra parte c'è Coutinho, Neymar! La cross di Marcelo, il pallone passa, al secondo palo, Paulinho! Pensare en positivo, en cambiar toda esta situación de mierda que estamos viviendo y intentar de salir, hacernos fuertes. Nosotros sabemos que vamos a recibir palos de todos lados ahora, como viene siendo en este último tiempo, pero hacernos fuertes nosotros y vamos a salir de esta situación. Dunque, io volevo partire con un brano storico di Leonard Cohen, un altro poeta della musica che oggi ci ha lasciato, cioè Alleluia, dedicandolo all'Argentina. Però poi avevo paura che Gianmarco Ferronato, che è il papà argentino, quindi è mezzo argentino, che lui si mettesse a piangere a dirotto dopo questo 3-0 del tre fischi del Brasile all'Argentina, come avete sentito, Coutinho, Neymar, Paulinho. Argentina messa male a questo punto. Manca tanto, va bene, quindi facciamoci coraggio, Giamma, facciamoci coraggio. Brasile 24 punti, Uruguay 23, Colombia 18, Ecuador e Cile 17, Argentina 16, si qualificano le prime 4 e poi c'è lo spareggio eventuale. A questo può puntare l'Argentina dopo la debacle della notte italiana. Già dall'Argentina si levano fischi nei confronti del commissario tecnico che non chiama Icardi. Allora, oggi, grazie a Giorgio De Luca, il nostro autore, ve lo dico subito, avremo una puntata piena di ospiti, di sorprese, di argomenti, e quindi vi consiglio di passare quest'ora e mezza fino alle 15:30 con noi. Intanto, mentre l'Argentina prende tre fischi in Brasile, noi aspettiamo la nazionale dei bambini, dei nostri bambini, di cui parleremo diffusamente. 800 24 00 24, ieri poi si è aperto il tema, il vaso di Pandora di Balotelli, convocato, non convocato, complice Cruciani che lo vorrebbe vedere in azzurro già subito. Però vi faccio sentire, tanto per cominciare, la voce di Bernardeschi. Ci sono tanti giovani con cui ho legato tanto, perché veniamo comunque dall'Under 21, sono i vari Cataldi, Romagnoli, Benassi, che adesso non c'era, però l'altra volta c'era, perciò siamo parecchi, ed è bello ritrovarsi qui in questo ambiente, in questa nazionale A che piano piano si sta riempiendo di giovani e sta facendo il suo percorso. Questo era Bernardeschi. Aspettiamo le partite con il Liechtenstein, valida per le qualificazioni europee, quindi partita ufficiale, ma aspettiamo soprattutto l'amichevole con la Germania, che io vedo molto pericolosa, molto scivolosa. Giocheremo in casa a San Siro, però è chiaro che è una partita molto rischiosa per questa nazionale in fase di crescita. Una vecchia regola del giornalismo dice che d'estate, quando non c'è nulla da dire, si parla del caldo; d'inverno, quando non c'è nulla da dire, si parla del freddo; e poi si dice che non esistono le mezze stagioni. Quando gioca la nazionale, la mezza stagione è sempre quella del mercato. A Napoli, per esempio, sono preoccupatissimi di cosa può succedere. Ieri abbiamo saputo che Milik ha ricominciato a correre senza palla, tutti vorrebbero vederlo in campo a gennaio. La vedo un po' duretta, perché, come sta scritto, dicevo prima, a un amico di Napoli, in certe pizzerie per i miracoli ci stiamo attrezzando. Sarebbe meglio non forzare, magari rinforzarsi. Due nomi che girano sono quelli di Pavoletti e di Zaza. Personalmente vedrei meglio il secondo dei due, però sul mercato c'è stata ieri una voce di Verratti che ovviamente tutti vorrebbero. Quando sento 100 milioni mi viene un po' da ridere per uno che per una persona che gioca a calcio, però ormai penso che sia un po' il calcio di adesso, e è brutto anche per un giocatore comunque andare in una squadra e essere pagato 120 milioni. Posso parlare di Paul, che ogni partita pensano che debba risolvere le partite da solo, giocare da solo. Questo sicuramente non lo vedo normale. Io non mi sento che valgo 100 milioni, mi sento un giocatore che sto facendo una grandissima esperienza, perché comunque gioco per una grande squadra, per un grande progetto, e non mi piace nemmeno parlare di mercato, perché comunque sto benissimo a Parigi. 100 milioni, Pierluigi Pardo, ragazzetto intelligente, Verratti. Sì, risposta di grande buon senso, di grande lucidità e anche di buon italiano, quindi tutto perfetto. Ma insomma sì, a parte che secondo me non di male 100 milioni, sai quanto io stimi Verratti. No, però interessante anche questo, quello che ha detto a proposito del peso che uno si porta dietro quando viene pagato, sì, così esatto. Tanto. Esatto, perché diciamo di tutti i concetti di questo breve virgolettato, mi pare quello più anche più originale, e che in qualche modo ci racconta una cosa che qualche volta si dà per scontata, cioè che i calciatori sono ovviamente uomini molto fortunati, ragazzi molto fortunati, perché questo è indiscutibile, però la componente di pressione c'è, cioè non è tutta rose e fiori, no, la vita di un chiaro, calciatore. È chiaro, poi è ovvio che ognuno di noi farebbe a cambio, penso, no? Con la condizione di un calciatore professionista che guadagna, sì, quelle cifre, quindi non i problemi dubbio. Sono i problemi dei disoccupati, sono, ma non c'è dubbio, non c'è però, dubbio su però tutto esiste questo. All'interno di questa situazione assolutamente dorata, esiste comunque un'adrenalina, una pressione, uno stress, e quindi certi problemi, certi momenti di appannamento non sono perché uno non c'ha voglia. No, anche perché poi tutti cominciano a suonartela con ma quanto ti hanno pagato, quanto ti danno, tutte queste cose. Mentre c'è Ulisse che scrive, abbiamo aperto il programma facendo sentire i gol del Brasile contro l'Argentina, la nostra Argentina avrebbe bisogno di Icardi, porca vacca, scrive Ulisse, Gianmarco Ferronato. Forse anche di un allenatore. Forse anche, bravo Pardo, forse anche di un allenatore. Beh, insomma ragazzi, io adesso... Con tutto il rispetto, dai. No, ma con tutto il rispetto, però voglio dire, lo diciamo sempre, no? L'allenatore è la sintesi del risultato in relazione a quelle che sono le potenzialità. Ecco, in questo momento il bilancio dell'Argentina è catastrofico, cioè stiamo parlando forse della nazionale più talentuosa al mondo, almeno da, questo va detto, dal punto di vista offensivo. Sì. Poi dalla cintura in su, no, ma questo, dalla... questo è chiaro, Pierluigi, però una squadra che ha così tanto talento una non può nazionale... essere sesta nel girone di qualificazione, tu dietro all'Ecuador. Tu pensa a fare una nazionale italo-argentina in nome degli italiani d'Argentina cantati da Ivano Fossati con la cintola in su Argentina e la cintola in su Italia, pensa che squadra viene fuori. E poi contro il resto del mondo. Senti, ci fermiamo per... Gemelliamo, il traffico 800 24 00 24, vi ripeto, oggi grandi ospiti, grandi temi e ne parleremo insieme. Tutti convocati. Con grande rispetto di Carlo Genta, che mi ha avvicinato alla radio come il Papa mi ha avvicinato alla Chiesa. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Convocati. Stiamo cercando il primo grande ospite annunciato che... Penso che di giovani italiani ce ne siano tanti e tanti bravi, e c'è solamente magari diciamo uno scalino da superare per cercare di dargli un po' più di fiducia. È normale che credo che non si possano buttare così tanto per, ovviamente, però magari col tempo e cercare di gestirli nel migliore dei modi potrebbe essere una soluzione. A cavallo di quest'onda, sballottato da sponda a sponda, inseguendo un'altra volta la grande onda che ritorna. Come modello giocatore, all'inizio da piccolino mi piaceva molto Zidane, come modello giocatore. Adesso magari Pogba, quei giocatori comunque adesso stanno esplodendo, che sono fortissimi. Però modelli come aspiro non ce ne sono. Io spero di giocare, però come ho detto prima stiamo dando tutti il massimo, tutti vogliamo giocare, quindi starà al mister a fare le sue scelte, l'importante è farsi trovare pronti. A dicevo prima della copertina che stiamo aspettando il primo dei grandi ospiti annunciati e vediamo se risponde al telefono. Quelli che avete sentito sono nell'ordine Cataldi, Gagliardini e Zappacosta, di questa Italia molto verde. Ne parlavamo anche ieri, Pardo. Insomma, con Liechtenstein non ci saranno problemi, anche se non siamo abituati alle grandinate di gol nelle qualificazioni per i grandi tornei, nemmeno con avversari di poco spessore come ovviamente Liechtenstein. A me fa veramente paura l'amichevole contro la Germania, perché tu dici è un'amichevole, però insomma è rischiosa quella partita. Ma a me le amichevoli non fanno mai paura, nel senso che pure se perdiamo 4-0, abbiamo perso di pensa a Germania-Italia, quella di Conte, e poi che cosa, anzi in certi casi la figuraccia può essere anche un'occasione per reagire. A me le amichevoli non piacciono, non interessano, anche se questa ovviamente è di grande prestigio. Tra l'altro martedì sarà una giornata di festa per tutta la federazione, verrà presentato il bilancio in mattinata, sarà una giornata insomma di chiusura anno per tutto il mondo azzurro, quindi sarà una giornata certamente molto importante. Poi giocare a San Siro è sempre bellissimo, quindi per carità, però insomma sinceramente del risultato della Germania importa, a me importa zero, del risultato dell'Inter in Italia importa invece tantissimo, cioè insomma le amichevoli, dai. Ho capito, però per una nazionale nuova, in crescita, piena di giovani, io continuo a pensare sia qualcosa di pericoloso. Eccolo il primo grande ospite annunciato, Claudio Gentile, buongiorno. Buongiorno. Ciao Claudio. Ciao. Senti, so che anche dalla tua autobiografia è una ferita ancora aperta, ma mi pare una bella generazione di under questa. Sì, direi di sì, anche perché... quell'under ha vinto la medaglia olimpica dopo 70 anni che il calcio italiano non la vinceva, e quindi oltre all'europeo, che però avevano vinto anche gli altri, da Maldini, Tardelli, Vicini, quella medaglia olimpica viene dopo 70 anni, e non solo, perché poi se vai a vedere sei miei giocatori due anni dopo sono diventati i campioni del mondo. È chiaro che il merito non è mio, il merito è loro. Però nel 2006 c'erano sei under 21 che erano avevano vinto l'europeo, la medaglia olimpica nel 2004. Senti, questa io e Pardo stiamo discutendo sull'importanza per una nazionale così giovane come questa che sta nascendo e che io ritengo molto interessante per il movimento del calcio italiano, non sono pessimista. Dell'importanza della partita con la Germania, va bene, un'amichevole. Pardo dice vabbè, anche se perdiamo 4-0 tanto le amichevoli chi se ne frega, però può essere per una nazione così giovane un banco di prova importante. Tu come la pensi? Ma guarda, sinceramente sono anch'io convinto che forse un'amichevole troppo pesante per una squadra giovane, no? Si poteva fare qualcosa di meno impegnativo, tanto per far crescere questi giovani. Però come rovescio della medaglia c'è il fatto che certi ragazzi li vedi già con giocatori di un certo livello e quindi ti puoi fare già un'idea. Vabbè che una partita non determina la carriera di un giocatore, però cominci a vedere qualcosa di importante. Dicevi Pierluigi? No, se fai bene è un'occasione per crescere, se fai male è un'occasione per reagire. Sono d'accordo, sicuramente Italia-Germania, magari giocare con la Finlandia o giocare con una squadra un po' più morbida poteva essere più opportuno, però è pure vero che poi magari giocavi con una nazionale morbida, perdevi ed era peggio. Qui in fondo tu un banco di prova già l'hai superato, sia pure parzialmente, che è quello contro la Spagna, perché ti sei trovato comunque in difficoltà, sei andato sotto, comunque hai reagito, hai pareggiato. È chiaro che la Spagna è la favorita per il primo posto in questo momento, perché avrà lo scontro diretto in casa al ritorno, perché ha vinto bene contro Liechtenstein, quindi però comunque insomma sei in corsa. Io credo che noi ce l'abbiamo vista brutta in Macedonia e questo è sicuramente il tema, sì. Però siamo ancora qua, come direbbe Vasco, quindi va benissimo secondo me. E ti ripeto, sulle amichevoli quello che conta non è tanto l'amichevole quanto poi come uno reagisce dall'amichevole nelle settimane successive, e la nazionale di Conte lo dimostra, perché noi siamo andati in Germania a farsi asfaltare a marzo, sì, e poi abbiamo fatto un grande europeo e siamo usciti per carità contro la Germania calci di rigore, ma con una partita di segno completamente diverso dopo aver dominato la Spagna. Quindi veramente questo secondo me è un po' un dettaglio. No, volevo chiedere invece al professor Gentile se Visto che c'è stata Brasile-Argentina, e io quando penso a Gentile calciatore penso ovviamente a, a Zico, a Maradona, a quel meraviglioso 82. Lui per chi tifa Brasile-Argentina? Così, per chi ha più simpatia? Visto che tanto l'abbiamo battuto tutte e due. No, io ho più simpatia per il Brasile. Grazie per il professore. Sì. Il Brasile, perché comunque anche quando hanno perso con noi, insomma, hanno accettato, hanno detto sì, hanno criticato, però bene o male hanno accettato il verdetto del campo. Gli argentini invece no, si sono lamentati del gioco, dell'arbitro, insomma, hanno trovato delle scusanti per giustificare il loro grande fallimento, perché il vero grande fallimento l'ha fatto l'Argentina. Nel senso che era campione del mondo in carica e avevano questo gioiello che doveva essere, no, il giocatore del mondiale, che era Maradona. Uh-huh. E quindi quando è successo quello che è successo, logicamente hanno dovuto trovare delle scuse. Senti, ma cosa è successo? Tanto è in prescrizione, cosa è successo nel tunnel degli spogliatoi poi dopo la partita? Con l'Argentina? Sì. No, non è successo niente di... Niente di che? No, no, assolutamente, assolutamente. Qualcuno non ha voluto cambiare la maglia, ma questo, sai, fa parte del personaggio, che chi è disponibile e chi no, però non c'è stato niente di eccezionale. Ma voi quanto ci credevate prima? Scusa, adesso stiamo un po' facendo la digressione, ma tanto sono giorni un po' così di varie ed eventuali, ovviamente aspettando che torni il campionato. Perché io ero un bambino, no? Avevo 8 anni e mi ricordo queste due imprese con Argentina e Brasile, anche per come eravamo arrivati a queste due partite, come due robe incredibili. Non avevamo, cioè, la mia percezione a 8 anni era che non avevamo mezza chance. La vostra qual era? Ve l'aspettavate di fare queste quattro partite così incredibili? Cioè, sapevate che avevate questa potenzialità? Oppure vi ha sorpreso pure a voi? No, diciamo che i giocatori c'erano. La svolta è stata quando si è deciso di fare il silenzio stampa. Fare il silenzio stampa voleva dire mettersi contro, insomma, praticamente la critica, no? Già non eravamo partiti sicuramente con gli elogi, e quando si è deciso di fare, insomma, di compattarsi, di fare gruppo, veramente gruppo, c'è stata la svolta. Nessuno poteva discutere niente, tanto è vero che quando Berzot mi ha dato Maradona, che non ci stava nel contesto della squadra come marcatura, perché io avrei dovuto marcare uno delle tre punte, cioè, che era poi tra l'altro era Kempes, e invece mi dirottò su Maradona, ma io non ho avuto neanche, cioè, non ho potuto neanche dire no, ma mister, guardi che ho detto va bene, mi prendo la responsabilità, perché non, se avessi rifiutato non avrei rispettato il patto. Cioè, qual è Maradona? Ah, il 10, ah, quello con i capelli lunghi, No, guarda che io sono dovuto andare a prendermi tutte le cassette delle sue partite di qualificazione e ho guardato tutta la notte, anche alle 2-3 di notte, per studiarmelo bene, come, perché sai, era la svolta, perché se fosse andata male la partita, tornavamo a casa, era la fine mondo. Ma la domanda è, dopo aver visto le videocassette, sei riuscito a dormire dopo aver visto Maradona? No, ho detto, dopo che ho visto la cassetta, ho detto, ma che miracolo devo fare per fermare questo? E poi invece, insomma, vado in campo col fucile. Senti Claudio, invece torno alla tua età e ti chiedo ancora questo, che cosa può dare Pioli all'Inter? Ma guarda, io sono contento che la società ha scelto un allenatore italiano, nel senso che è molto più esperto, più a conoscenza. De Boer, con tutto, non voglio assolutamente togliere i meriti di questo allenatore, però non conosceva niente, poco del calcio italiano, e non conosceva nemmeno, secondo me, anche il discorso dei giocatori. Io, meno male, conoscendo, avendo visto questa squadra, può avere le idee un po' più chiare, può dare, secondo me, anche delle svolte nel gioco, e magari potrebbe fare anche il miracolo. Io non dico quello di vincere il campionato, ma di arrivare in Champions, a ridosso delle prime. Sì, sono d'accordo. Grazie Claudio. Grazie, grazie a voi. Ciao Claudio Gentile, è sempre un piacere. Ciao. Pardo, ci fermiamo per la borsa, poi aspettiamo il professor Condò e un altro grande ospite. Tutti convocati. qui è altro che Ciupiti di Popovic. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Entra in Cariparma, scopri Crédit Agricole. Nuova meta, stessa passione. Rieccoci. Tutti convocati. E c'è Pierluigi Pardo e c'è Paolo Condò. Ciao Paolo. Eccomi. Ciao. Ciao Carlo. Ciao. Ciao. Prima ciao. Una battuta sull'Argentina, che con Messi dice un momento di merda. Vabbè, 3-0 dal Brasile. Non poteva dire altro forse. Pardo giustamente diceva che certe volte servirebbe anche un allenatore. Lo chiedi a me? Sì, a te Paolo Condò. Sì, ti devo dire che ieri lo pensavo durante la partita, stanotte ho deciso di assistere e ho fatto bene perché ho visto un gran bel Brasile, oltre a un'orrenda Argentina. E pensavo a uno degli allenatori italiani top, quelli che abbiamo esportato per esempio con grande successo negli altri campionati, alle prese con un rebus come quello argentino. Ti devo dire che io mi sono fatto un'idea ormai abbastanza precisa, senza sapere individuare però i nomi. E cioè ci sono alcuni giocatori che non si combinano con gli altri, alcuni campioni che non si combinano con gli altri campioni. Probabilmente l'illusione di schierare tutti assieme Messi, Higuain, Agüero, Di Maria e così, ce n'è qualcuno, che naturalmente non è Messi, ma uno di quelli che stanno attorno a Messi, ce n'è qualcuno che non si combina. Intanto questo è il problema. Brutte notizie per la Juventus: si allungano i tempi di recupero per Dybala, starà fuori per altre 3 settimane. Allora io ho bisogno di mister Paolo Condò e di Pierluigi Pardo per fare una bella intervista all'allenatore del momento, che è Giampiero Gasperini. Buongiorno mister. Buongiorno. Come va? Bene. Ciao Giampiero. Ciao. Direi bene. Avevi previsto tutto, lo sapevi, no? Lo sapevi. Tutto, no. Sì. Tutto previsto. Lascio la prima domanda a mister Condò. Allora, è molto divertente, secondo me, come prima domanda, Giampiero. E cioè, trovo che l'Atalanta, a grandi linee, stia facendo più o meno quello che ha fatto il Leicester l'anno scorso in Inghilterra, con una differenza. Immagino Gasperini in questo momento. No, attenzione, capitemi bene, con una differenza. Mentre l'anno scorso in Inghilterra il Leicester incrociò la grande crisi del Chelsea, del Manchester United e un campionato stinto di Arsenal e Manchester City, e grazie a queste cose riuscì addirittura a vincere il titolo, non credo che l'Atalanta avrà lo stesso comportamento da parte della Juventus, della Roma e delle altre grandi del campionato. Quindi l'Atalanta non vincerà il titolo, però andando a vedere esattamente quello che ha fatto il Leicester l'anno scorso e quello che sta facendo l'Atalanta quest'anno, i punti di contatto esistono per me. Esistono in 7 domeniche, bisogna vedere poi il campionato. Per queste 7 domeniche indubbiamente, però il campionato è veramente molto, molto lungo, ma non lo diciamo tanto per mettere le mani avanti, perché effettivamente è un campionato molto equilibrato, molto più difficile di quello, secondo me, che è il campionato inglese, dove ci sono. Sì, ma restando a quelle similitudini, io trovo per esempio che un giocatore come Gomez, ecco, possa essere paragonato a Vardy. Cioè, di Gomez, come di Vardy, non era il primo anno che giocava in Premier. Vardy si sapeva che aveva una velocità e una capacità, ma non ai livelli a cui avevamo stato l'anno scorso. Allo stesso modo il Papu Gomez sono anni che sappiamo che è bravo. Quest'anno sta giocando davvero. Quest'anno sta giocando forse meglio ancora che gli altri anni. È chiaro che dopo Pardi stesse una quantità di gol notevoli. Lui è un po' un altro ruolo, ma al di là dei paragoni, noi siamo già molto felici di quello che siamo riusciti a ribaltare in queste settimane. Adesso ci aspetta un po' per tutti, anche per noi stessi, capire quanto possiamo continuare, quanto possiamo giocare ancora con questa allegria, con questa intensità, con questa voglia, quanto possono crescere ancora i nostri giovani. Sinceramente non abbiamo in questo momento degli obiettivi così importanti di classifica. Siamo curiosi anche noi di poter vedere se veramente possiamo, anche a sospetto delle grandi squadre, adesso incontreremo un po' di fila Roma, Juve, Milan, sì. Cosa saremo capaci, insomma, di come riusciremo a contrapporci a queste squadre. Condizione ideale. Pierluigi Pardo, tocca a te. No, io vorrei capire che è successo fra le prime 5 giornate e quelle dopo, nel senso che la sensazione da fuori è che Gasperini abbia messo tutto il suo coraggio e la voglia di fare le cose completamente di testa sua, la faceva sicuramente anche nelle prime giornate, però insomma che abbia preso ancora di più la voglia di sperimentare, di seguire l'istinto nel lanciare i giovani nelle ultime giornate, però vorrei sentirlo da lui ovviamente. No, ma effettivamente così, io ero già venuto con quella intenzione, poi purtroppo il mercato magari estivo non era, l'avevamo chiuso con una rosa molto ampia, ma un po' troppo numerosa per quelle che erano le mie abitudini, ci è voluto un po' più di tempo, era anche rischioso partire subito con tutti questi ragazzi, per quanto io li avevo già, insomma, credevo molto, ho già individuato vedendo anche gli allenamenti che erano ragazzi di qualità, però giustamente c'erano anche delle situazioni da rispettare, delle situazioni da portare avanti prima e poi dopo, insomma, forse la mancanza di risultati iniziali ha accelerato quello che già avrei voluto fare dall'inizio. Senti Giampiero, mi sembra che l'Atalanta sia però in questo momento un po' il simbolo del calcio italiano, che sta vivendo un momento molto interessante a mio parere. Basta guardare i convocati di Ventura, basta guardare appunto i giocatori che tu alleni. Mi sembra un po' insomma, che possa esserci un parallelo tra questo momento dell'Atalanta e questo momento della Nazionale. Ma io devo dire finalmente, a parte che non è, magari l'esempio dell'Atalanta è un po' più eclatante, però vedo anche altre squadre che cominciano veramente a cambiare un po'. Eh sì, un po' Milan è una delle squadre più giovani d'Europa, ad esempio. Esatto, il Milan è anche. Si comincia nuovamente ad avere verso i nostri giovani, ma non per uno spirito solo di appartenenza, ma perché effettivamente sono contento che un movimento, sono convinto che un movimento importante come quello italiano di così tanti ragazzi che giocano a calcio fin da 6 anni non possono non produrre dei giocatori di qualità, o perlomeno abbiamo perso veramente tanti anni su giocatori da altre nazioni, più per altri motivi che non specificamente tecnici. Sì. Ragazzi, questo, vi chiedo a tutti e tre, Giampiero Gasperini, Pierluigi Pardo, Paolo Condò, 30 secondi di pazienza, traffico, poi ancora una domanda a testa, poi salutiamo Gasperini. Tutti convocati. Vado a giocare, ci vediamo dopo. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Tutti convocati. Allora, per Giampiero Gasperini, nostro graditissimo ospite, un'ultima domanda da Paolo Condò e da Pierluigi Pardo. Paolo. Giampiero, provando a leggere nel futuro, so che non è facile, ma è un divertimento anche, a leggere nel futuro, pensi che dei tuoi ragazzi quello destinato a fare la maggiore carriera sia che si è, come pensavamo tutti nelle prime domeniche, oppure c'è qualcun altro, Gagliardini, Caldara e qualcuno degli altri? Sì, no, credo anche gli altri, io credo molto Gagliardini, poi dipenderà un po' dall'evoluzione di tutti, che si è quello più, se vogliamo, più pronto dal punto di vista fisico, ha dotato di una forza, di un'esplosività naturale che l'ha messo in evidenza subito. Gli altri hanno però margini importanti sono convinto che tutti quelli che sono in questo momento in squadra possono ambire a diventare giocatori importanti, un serbatoio anche per la nazionale. Pardo. Sì, mi ha un po' rubato la domanda, ma questo dimostra la nostra grande sintonia. E quindi Ciro invece sulla Roma, perché Atalanta-Roma sarà una grande partita. In questo momento è uno scontro diretto fra grandi squadre. C'è un modo, ha già cominciato a pensarci, c'è un modo per mettere in difficoltà la Roma? È uno scontro diretto tra una grande squadra e tra una squadra che avrà la curiosità con il suo entusiasmo di vedere, di misurarsi per capire quanto riusciamo a reggere il confronto con questi giocatori e anche contro la squadra, perché la Roma è una squadra che gioca un grande calcio, che è pericolosissima, ha grandi capacità offensive. Quindi per noi è un test, ma non per motivi di classifica, proprio di curiosità di vedere quanto possiamo competere con questo tipo di squadra. Senti Giampiero, per chiudere, anche tu ti trovi nella condizione di, in questo momento, di alcuni tuoi colleghi. L'altro giorno dicevo e leggevo che Allegri si trova con 4 giocatori da allenare, anche a te le nazionali ne hanno portati via un sacco. Come lavori in questo momento? Come si lavora senza giocatori? Noi ne abbiamo un po' di più, appunto. ne abbiamo una decina, però è una buona opportunità, perché poi qui comunque c'è Gomez, c'è Spinazzola, che è un altro ragazzo che sul quale credo molto, e poi c'è una serie di giocatori che magari hanno giocato meno, e lavoriamo chiaramente più sotto l'aspetto individuale, più sotto l'aspetto del recupero, chi ha magari avuto qualche problema atletico, ma invece soprattutto sotto l'aspetto tecnico, che in queste pause non è mai è l'occasione migliore di rivedere situazioni che magari durante la stagione normale si fa più fatica. E questo è molto interessante. Grazie mister, in bocca al lupo. Grazie a voi, buona giornata. Ciao. Hai capito? Avete capito, ragazzi, quando è Pardo? Come si lavora? Si lavora sul singolo giocatore in questi momenti in cui le nazionali ti portano via tutto. Guarda, Gasperini ha avuto nella sua carriera dei momenti altissimi, e questo ovviamente è uno di quelli. Quando trova sintonia, fiducia, un gruppo di giocatori che gli danno al 100% tutta la loro testa, non soltanto i loro corpi, ma la loro testa. Come è successo in certi momenti col Genoa, poi si crea una sintonia. Bergamo, da questo punto di vista, è provinciale solo così di nome, perché insomma in realtà è una tifoseria caldissima, c'è grande cultura di calcio da sempre, ne sa qualcosa il nostro amico Mondonico, quindi insomma è anche un tipo di contesto provinciale, se vogliamo, ma molto molto molto contesto storico. Quindi, poi c'è un falso storico che viene cancellato, perché parliamoci chiaro, dopo lui ha sempre fatto molto bene al Genoa, però all'Inter c'era stato quel fallimento in poche settimane, e poi al Palermo con Zamparini non si era preso, questo aveva portato alla Vox Populi. Gasperini è un allenatore, è uno di quegli allenatori che fanno bene in un posto soltanto, invece qui a Bergamo sta sfatando questo luogo comune, che probabilmente l'ha anche penalizzato in certe trattative, in certe opportunità. Paolo, parliamo dell'Inter, ma Palermo è una situazione ingiudicabile, dai. Onestamente è una situazione... Ma anche quella dell'Inter durò talmente poco esatto, da essere ingiudicabile. Però sai, ti fai rapidamente la fama nel nostro campionato, nel nostro mondo, dire quello lì fa bene soltanto al Genoa, come Lippi prima del titolo mondiale... Sì, diceva, certo. È uno che fa bene soltanto alla Juventus, ecco, invece poi arrivano le stagioni e le situazioni nelle quali dimostra che si trattava di luoghi comuni idioti. Certo. Senti, per chiudere, Paolo, come ti aspetti l'Inter di Pioli? Me l'aspetto concreta, che naturalmente blindi un po' di più la sua difesa, perché alla fine continua a prendere troppi gol, ha preso il doppio dei gol della scorsa stagione, e mi aspetto probabilmente una scelta a centrocampo, cioè uno dei big che alla fine uscirà dalla formazione base, perché per me lui proverà a giocare con Icardi, almeno inizialmente con Icardi ed Eder, e quindi qualcuno esce a quel punto. Grazie Paolo. Ciao, buona giornata. Paolo Gondò. Luigi da Bari e poi salutiamo anche Pierluigi Pardo. Buongiorno Luigi. Buongiorno Carlo, buongiorno Pierluigi e volevo salutare anche il professor Condò. Dunque la mia domanda era principalmente sulla nazionale, si era parlato per l'ennesima volta del ritorno di Balotelli, però sostanzialmente se ne sta riparlando ora che Ventura è di nuovo sulla panchina. Quando c'era Conte, diciamo, lui è stato fermo, il suo punto di vista era non voglio Balotelli in nazionale, vabbè, anche meno Cassano. Anche perché Balotelli non stava combinando nulla. Non stava combinando niente, sì, sicuramente. Non è stato molto difficile chiudere la porta, no? Il motivo fondamentale è questo, si parla di Balotelli non perché ci sia Ventura adesso e non Conte, ma perché c'è Balotelli diverso. Che torna ad abbagliare col suo talento, poi ovviamente c'è la solita incognita legata alla tenuta mentale prima ancora che tecnica di questo giocatore. Sì, quindi non è una questione di allenatore, è una questione di capire se Balotelli riuscirà, come ha detto mille volte giustamente Pardo, a giocare una stagione normale in funzione del suo talento. È tutto qui, poi non credo che ci possano essere altre preclusioni, Pier. Sì, anche se poi l'abbiamo detto, insomma, la nazionale non serve neanche che Balotelli faccia bene 9 mesi, serve che Balotelli faccia bene un mese o faccia bene 7 partite. Quindi da questo punto di vista il compito dei Balotelli, dei Cassano, cioè di quei giocatori che hanno avuto problemi soprattutto nella continuità e nella tenuta mentale e comportamentale, in nazionale è un tema meno importante. Poi è ovvio che la nazionale, lo sappiamo, si arricchisce anche di valori morali, c'è il discorso di riprodurre la dinamica. Ma non bisogna chiedere, secondo me, a questi giocatori di essere leader. Non bisogna chiedere a questi giocatori di essere leader, bisogna chiedere a questi giocatori di spremere quanto possono dal loro talento e di comportarsi in maniera normale. Pier, ci sentiamo domenica, tutti convocati il weekend. Ciao, ti abbraccio forte. Ci fermiamo per Giornale Radio e poi torniamo con gli ascoltatori 80024 0024 naturalmente, con un sacco di altri argomenti. Tutti convocati. Io non gliela faccio più, ragazzi. Mi fate fumare una sigaretta. Dai, mezza sigaretta. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, eh. E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. Di faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Il segnale orario vi è offerto da Unica. L'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da Entra in Cariparma. Scopri Credi Agricole. Nuova meta, stessa passione. Pigi il verde ora. Ma subito. Te ti addormenti. Pigi il verde, dai. Tutti convocati. Ovviamente sì, sono bei ricordi che ho, però sappiamo che tutti partiamo da zero questo weekend, devo fare il buon lavoro e basta. Come si costruisce? Concentrato, veramente, e fare il lavoro bene nelle prove, sempre a migliorare, trovare un buon ritmo e poi basta, come sempre, tirare fuori un bel giro nella qualifica, fare la gara, partenza, tutto quanto. Questo uno dei due galli nel pollaio Mercedes, cioè Nico Rosberg, Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. In Brasile si è spesso assegnato il titolo mondiale, succederà anche stavolta? E partono tutti da zero, ma. Diciamo che mi sembra che Rosberg parta un po' più avvantaggiato, ha una classifica che gli consente anche di sbagliare, insomma, anche se ha finalmente un match ball vero a sua disposizione, perché quello del Messico non era proprio un match ball reale, doveva esserci una serie di combinazioni particolari. Qui se vince lui finisce tutto. Io dico che il mondiale se lo merita, l'ho detto e lo ripeto, è un'affermazione che se domenica dovesse vincere Milton, se dovessero trovare 9-9 tutte e due le vittorie, beh, allora sarebbe molto bello vedersi un'ultima gara di spareggio negli Emirati Arabi. Io credo che Hamilton gli renderà la vita difficile fino all'ultimo. In questo momento lui può solo sperare in un miracolo per vincere il mondiale, quindi forse avrà il braccino meno corto di Nico. Sì, a questo proposito un po' tutti tifano Nico Rosberg, bravo ragazzo, ha perso molte volte, parla bene italiano, lo sentiamo come uno dei nostri, però io posso andare un po' controcorrente e confessarti tra me e te che a me non dispiacerebbe che Trump Hamilton vincesse il mondiale, perché è un fenomeno. Ma se devi fare giudicare il pilota, io credo che Hamilton oggi sia il migliore che ci sia. Hamilton, io poi ci vedo ancora Alonso e poi ci vedo Vettel. Rosberg non è nei primi tre. È un pilota che è riuscito quest'anno a utilizzare nel migliore dei modi la sua Mercedes, ha sbagliato quasi niente, ha avuto fortuna perché lui non ha avuto rotture clamorose come quella di Hamilton in Malesia, ma se penso al pilota che può fare la differenza, al pilota straordinario, penso più a Hamilton, non penso a Rosberg, quindi la sua sarebbe un'impresa straordinaria, riuscisse a ribaltare una situazione in cui è finito un po' perché lui ha avuto una pausa esatto, quello che ti stavo dicendo io, sarebbe un po' buttato via, sarebbe un po' buttato, l'altro non sbagliava niente, però poi ha avuto quella sfortuna in Malesia che avrebbe potuto veramente ribaltare il campionato, visto anche come era partito Rosberg. Lui se l'è giocata anche perché ha spesso sbagliato la partenza quest'anno, ha avuto le quattro gare post sosta in cui lui è rimasto in vacanza e poi spesso ha sbagliato partenza nelle volte in cui è riuscito a ottenere la pole position, però come valore assoluto io sto con te, Hamilton è davanti agli altri, non c'è dubbio. Sì, dove si trova la gomma per cancellare la stagione della Ferrari? Ma la si trova pensando alla stagione di tre anni fa, perché in fin dei conti l'ultima stagione di Montezemolo, quella in cui si arrivò al licenziamento di Domenicali, Montezemolo, Mattiacci e compagnia, era stata peggio di questa, perché c'erano stati meno zero vittorie ma meno podi, insomma. Quindi non è lontanissimo una Ferrari inguardabile. Il problema è che allora non c'erano state promesse di vittoria del campionato del mondo, invece quest'anno c'erano state delle promesse di una Ferrari in lotta per il mondiale, una Ferrari vincente fin dalla prima gara. Non l'abbiamo ancora vista e mancano soltanto due gare, non credo che la vedremo una Ferrari vincente, ma credo che anche Marchionne abbia un po' cambiato idea, anche se non ha perso l'abitudine di fare promesse difficili da mantenere, perché l'altro giorno con gli azionisti ha parlato di una Ferrari che potrebbe partecipare al campionato di Formula E, quello con le macchine elettriche. Ecco, se nel gruppo FCA ci fosse già una vettura elettrica sul mercato, forse sarebbe una promessa più facile da mantenere, visto che invece le concorrenti hanno tutte motorizzazioni elettriche o ibride, cosa che FCA non ha, insomma mi sembra un po' difficile da mantenere. Però intanto concentriamoci sulla Formula 1. La Ferrari ha fatto bene a fare ricorso, io credo, perché punire Vettel per questo passo in Messico, solo Charlie Whiting e i suoi amici commissari possono fare una cosa di quel tipo, non tanto per riguadagnare un podio, perché credo che un podio non cambierà la storia della Ferrari, per questione di giustizia, per capire un po' dove vogliono arrivare queste regole assurde della Formula 1 che ci vietano uno dei pochi momenti divertenti. Ma certo, ormai fare battaglia è diventato praticamente vietato, se togli anche quello allora a quel punto fa bene la gente. Togli anche quello, riduciamo i gran premi alla partenza, facciamo un giro, un giro e vediamo come va a finire. Risparmiamo molto tempo e basta, è molta benzina. Che voto dai alla stagione, non è ancora finita, ma alla stagione di Vettel? La stagione di Vettel gli darei 5 perché mi ha deluso perché dopo la grande stagione dell'anno scorso, quest'anno non è riuscito mai, aveva una Ferrari che non era un granché, però non è mai riuscito a invertire la tendenza della stagione a fare qualcosa in più. Sta di fatto che il suo confronto con il compagno di squadra Raikkonen lo vede molto, molto vicino, perché hanno 9 punti di differenza, e Vettel dovrebbe averne molti di più rispetto a Raikkonen, di cui eravamo abituati. Però che Raikkonen è andato bene quest'anno, ma non so se è andato bene lui, è andato molto male Vettel. No, io ho la sensazione che Kimi, che è un cyborg, sia andato come doveva andare. Ho invece la sensazione che Vettel si sia un po' demotivato dopo le prime corse. Vettel, che anche lui ha creduto, come Marchionne, a quello che raccontavano i tecnici, per i dati raccolti in galleria del vento e ai simulatori, dopo le prime due gare ha capito che non c'era trippa neanche quest'anno. Si è illuso forse un po' in Cina, dove è riuscito ad arrivare secondo, ma poi si è capito che la Ferrari non c'era e che il gap, nonostante i gettoni spesi per il motore e i progressi fatti sul motore, c'era ed era più grande di quello dell'anno scorso. E lì è andato un po' in depressione, cosa che gli è capitata anche nell'ultima stagione in Red Bull, quando ha capito che le cose si mettevano male, lui è stato sottoffare da Ricciardo. Che come ben sa abbiamo visto progressivamente accadere anche a proposito di Alonso. Non vorrei che quella fosse la china, ma siamo solo agli inizi dell'avventura di Vettel alla Ferrari. Siamo solo agli inizi, ricordiamoci che anche Schumacher, prima di arrivare a vincere un campionato, certo, del mondo, ci ha messo un po', ha combinato anche dei guai più grandi di quelli di Vettel, ha avuto anche dei momenti pesanti come l'infortunio, la rottura della gamba, la squalifica per quella grande dischierata fatta con Villeneuve Harris, sì, certo. Insomma, un po' di pazienza ci vuole, certo. Quella era una Ferrari che era stata costruita però attorno a Schumacher come un dream team, prendendo il meglio di quello che c'era in circolazione da tutte le scuderie, soprattutto dalla Benetton. Questa è una Ferrari che viene costruita col meglio che c'è in casa, speriamo che basti. Grazie direttore. Grazie, buon lavoro. Buon weekend a ciao tutti. Umberto Zappelloni. E c'è Giacomo Bagnasco che è sul prato dell'Olimpico di Roma, dove domani scenderanno gli All Blacks contro l'Italia. Finalmente vedremo lo stadio olimpico, io credo esaurito, come con Roma e Lazio non succede mai ormai. No, non succede mai. Io intanto non sono proprio sul prato, ma quasi, e vi porto anche il saluto dei ragazzi del Master Sport e Business del Sole 24 Ore qui a Roma, che oggi sono in visita allo stadio e domani saranno alla partita, quindi insomma è una bella sinergia, è una bella iniezione di tifosi giovani e anche competenti. In ogni caso si riempirà l'Olimpico, effettivamente già l'anno scorso nel giro di 3 giorni era successo quello che fino a 10 anni fa, Carlo, sarebbe stato addirittura impensabile. Certo. Il sabato 70.000 persone per Inghilterra e Italia di rugby e il martedì successivo 55.000 persone per Roma Real Madrid, valida per la Champions League. Sì, succede sì, anche sì, questo. Succede anche questo. Novità dell'ultima ora? Nessuna. Novità dell'ultima ora? Nessuna. C'è stata la conferenza stampa con Sergio Parisse, che naturalmente ha espresso primo il massimo rispetto, secondo ha detto probabilmente se gli All Blacks giocano con una squadra in buona parte di rincalzi c'è da preoccuparsi ancora di più, perché dovranno farsi vedere dal loro allenatore. Terzo, ha detto con il nuovo commissario tecnico abbiamo sicuramente lavorato a un'intensità quasi sconosciuta e dice che si sente molto, molto stimolato a 33 anni come un giovane alle prime armi. Per quanto riguarda la formazione degli All Blacks, è vero che faranno rifiatare numerosi giocatori, ma d'altronde hanno perso a Chicago una settimana fa. Sì, infatti anche questo può essere un motivo di pressione, esatto, di preoccupazione, no? Io mi aspetto, al di là dei rincalzi di chi giocherà tra gli All Blacks, mi aspetto una squadra dei neri piuttosto incazzata dopo quella sconfitta. Indubbiamente. Nello stesso tempo il turnover, dicevo, hanno perso 7 giorni fa a Chicago e fra 8 giorni giocano di nuovo con l'Irlanda a Dublino. Ti immagini che tipo di partita? Beh, mi immagino sì. E poi chiudono con una partitina a Saint-Denis con la Francia, proprio così tanto. Quindi è chiaro che se dovevano scegliere una partita nella quale avvicendare un po' i giocatori era quella con l'Italia. Non si offende nessuno, tantomeno lo ha fatto il commissario tecnico O'Shea, che ha detto intanto vengono qui, sono fortissimi e noi pensiamo a noi, a quello che riusciamo a fare. E ha anche detto una delle sue frasi preferite in italiano, che cerca di masticare e ci riesce anche abbastanza bene: ha detto non vedo l'ora, sì. Non vediamo l'ora neanche noi. Neanche poi... noi di iniziare questo nuovo ciclo, Giacomo. Certo, certo, indubbiamente, indubbiamente. Di sentire aria nuova e diversa. Grazie Giacomo Bagnasco, ci sentiamo sicuramente domenica. Ci sentiamo, credo. Sì, domenica certamente, poi nel corso del GR dove avremo diversi speciali su questa gara. Adesso invece andiamo per il gran finale, torniamo ai motori e andiamo per il gran finale delle due ruote a Valencia. Ciao Roberto Ungaro. Ciao Carlo, un saluto a tutti. Ciao Lorenzo, saluta la Yamaha dopo 9 anni, quindi baci e abbracci con pochi rimpianti immagino di Valentino Rossi, insomma è un'avventura che finisce, vai pure con la Ducati. Compitino, si è comportato bene, ha fatto una bella letterina dove lascia comunque serenamente, sì, anche perché è l'ultimo giorno di scuola questo, in realtà tutti sereni, tutti con gli abbracci. La foto più importante è quella dei 9 vincitori di quest'anno, secondo me non accadrà ancora per 50 anni, dovremo vedere tante stagioni prima di vedere 9 vincitori in un'unica stagione. Ti dicevo, ultimo giorno di scuola, più freddo del previsto, 23 gradi ma al sole, si aspettava invece una temperatura più calda. E Lorenzo ha messo in riga tutti, sia stamattina che questo pomeriggio. È lui l'uomo da battere, e Marquez alle sue spalle 2,5 decimi, non è poco. Valentino era andato bene nelle prime libere, secondo, invece adesso in ritardo, solo 8° a 8 decimi quasi. L'unica nota positiva che ha fatto un po' sorridere tutti è che lui, quando la mattina ha rotto la moto, è rientrato da un'altra via e ha attraversato il paddock dalla parte opposta, è entrato nel box al contrario, insomma. Un po' come vedere una moto da pista in mezzo al traffico della città, hai capito? Erano tutti belli contenti. Sì, questa immagino. È stata la nota più positiva. Per il resto sono tutti proiettati a martedì, perché tu sai che martedì inizia la stagione nuova e i piloti proveranno le nuove moto, quindi Valentino aspetta con grande attesa la nuova Yamaha, che è un po' ferma, a livello di sviluppo, e poi vedremo cosa faranno tutti gli altri sulle nuove moto. Sì. Quindi staremo un po' a vedere, ecco. Sì, il grande, comunque resta il fatto che il grande favorito per questa festa finale si chiama Jorge Lorenzo. Non abbiamo molti dubbi in proposito, no? Sì, a giochi ormai fatti. Sì, sì, sì, è in palla, la testa vuole chiudere bene perché ha avuto una stagione super negativa e quindi vuole chiudere in bellezza. La cosa positiva, da appassionato, dico che hai una Yamaha e una Honda, due moto completamente diverse, attaccate prima e seconda su un circuito che dovrebbe favorire un po' più Honda e non Yamaha. Ma Lorenzo ci ha messo veramente del suo, dicono che se è come oggi sarà difficile stargli dietro attaccato. Staremo a vedere, e comunque ti ripeto, sono tutti proiettati a martedì, questo è giusto un pro forma. Un ultimo giorno di scuola dove vai già con la testa bella leggera, pronto a festeggiare. Certo, senti, cosa l'altro giorno ho sentito con grandissima invidia, e gliel'ho confessata perché è un amico, gli voglio un gran bene, Marino Bartoletti, che ha fatto l'apertura pontificia dell'EICMA che c'è in questi giorni a Milano, che è il santuario delle novità in termini motociclistici. Ovviamente, sei stato lì con grande attenzione. Cosa c'è sono in giro? Sono qua. Allora, nessuna rivoluzione, perché non c'è la moto che ti fa dire wow, ma l'evoluzione di tante specie, e quindi quello che vorresti vedere. La tecnologia, l'innovazione, adesso la vedi perché viene spiegata, viene raccontata e resa visibile in modo molto creativo dai vari brand che sono sempre più presenti. Le moto che hanno così colpito sono 3 prototipi, c'è una Yamaha molto bella da fuoristrada che tornerà alla Tenere, tu te la ricorderai perché la tua infanzia, la tua adolescenza, bene. C'è un prototipo molto molto bello che prefigura quella che sarà la Tenere definitiva. Honda prova una terza via, né scooter né moto, non è il T-Max che ben conosciamo, ma è un incrocio vero tra moto e scooter da fuoristrada automatica. E lì sono poi un po' più perplesso. Esatto, la terza via che sai a noi magari non può piacere tanto, però la massa chissà. E KTM, ragazzi, innanzitutto grande attesa perché qui debuttava, ha preso 3 secondi tra parentesi, però per la debuttante ci sta. Però ha fatto vedere che lo fa seriamente, grande attesa per questo debutto qui a Valencia, e con Mika Kallio, però ha fatto vedere una moto nuova, che è la nuova bicilindrica, che stende al nuovo corso, la Duke bicilindrica 800, veramente molto molto bella, aggressiva come sempre, e i motociclisti un po' più smanettoni diciamo che sbavavano, c'era molta salivazione accelerata, infatti c'era l'impresa di pulizia un po' più impegnata di fronte allo stesso. Un po' preoccupato. Sì. Comunque il trend dove va sempre sulla nuda in tutte le salse, l'enduro stradale che è la nuova stradale, in tutte le città cilindrate, ora anche piccole, BMW la 300, piccolina, interessante, però se è tutto un prodotto non per noi, diciamo per il mercato asiatico. Quindi enduro in tutte le salse, ritorna un po' la sportiva, sempre più leggera, sempre più elettronica e sempre più potente. Suzuki è un po' lo stato dell'arte di questa moto e è una buona operazione di marketing, perché dalla MotoGP a una moto di serie che è il motore di riferimento, 202 sì, certo. cavalli quando gli altri sono ancora 185-190, la ciclistica così così, ma tu sai che i reparti corsi poi stravolgono tutto e la moto la fanno andare bene. Quindi ti ho detto enduro e sportiva, le nude in tutte le salse, l'elettrico avanza, Carlo, prepariamoci perché faremo in tempo a vederlo. Brividi. Sebbene l'attuale elettrico stente fa fatica nel mondo del due ruote, tu lo sai, a differenza dell'auto che è già il presente, non il futuro. Sì, no, per carità, però, con tutto il bene che si può volere agli ecologisti, a me esatto. la moto elettrica mette i brividi. Lo so, però noi abbiamo i capelli brizzolati. Sai cos'è? Che è arrivata la Vespa elettrica. E la Vespa, che è più di un mezzo di trasporto, ma è un'icona dell'immaginario collettivo. Quindi anche la casalinga di Voghera potrà, io dico, velocizzare questa percezione che l'elettrico potrebbe essere un'alternativa, perché lei è qualcosa di più di un mezzo di trasporto, è un oggetto del nostro quotidiano, del nostro costume, e quindi questo potrebbe accelerare i tempi. Per carità. Grazie Roby. A te Carlo. Ci vediamo lunedì. Ciao Roberto. Ciao, Ungaro. Ciao a tutti. Io chiudo con Alessandro dalla provincia di Frosinone, un ascoltatore, buongiorno. Buongiorno. Volevo tornare un attimo su Vettel. Sì. Io direi che un 5 è troppo. È troppo. Secondo me è bocciato su tutto, senza attenuanti. Però mi deve spiegare perché. È perché il buon Alonso arrivava sempre molto prima del compagno di squadra. Con un muletto è arrivato secondo. E se non fosse stato per il Grosjean, che a spalle è andato addosso in partenza, e la scuderia che qualche volta gli ha tolto qualcosa con qualche errore, era campione del mondo con una Ferrari che tutto sommato non era una grande macchina. E non dimentichiamo che io sono d'accordo con Zappelloni, cioè Alonso rimane uno, cioè poi ognuno fa la classifica che vuole, anche lei, Hamilton, Alonso, Vettel, li metta nell'ordine che preferisce, però questo è il meglio che c'è. Alonso ha trascorso molti anni in Ferrari, mi viene quasi voglia di dire che ha speso una carriera, il meglio della sua carriera, su una macchina che non l'ha portata a un titolo. Non per colpa sua, lui ha messo più di quello che poteva magari, e sono sottilmente contento per l'arroganza usata da Marchionne nel cacciare Montezemolo, sostanzialmente, addebitando a lui delle assenze di risultati che magari c'erano, per carità. Sì, comunque rimane il discorso, guardi Alessandro, rimane il discorso che abbiamo fatto prima con Umberto Zappelloni, cioè stiamo cercando la gomma in grado di cancellare questa stagione che era partita sotto auspici sbagliati e che si è trascinata fino ad un finale in cui la rossa sul gradino più alto del podio non l'abbiamo vista mai, ma nemmeno da lontano. Io ringrazio tutti, a cominciare da Gianmarco Ferronato in regia. Non ti preoccupare, l'Argentina ce la farà a qualificarsi per il mondiale, forse. Ho qualche dubbio. Giorgio De Luca, il nostro autore, ci sentiamo con tutti i convocati weekend, domenica dalle 17 alle 19, ovviamente tornerà Giovanni Capuano, oltre al sottoscritto, e poi lunedì tutti i convocati. Fatto, dai, spegni il bianco, il rosso o il verde, dai, uno dei tre, spegni.